hayaelewi matendo yako. Napopata matatizo, maswali tele moyoni, mbona yafanyike hivi, mbona yafanyike vile. Mara nyingi mwanadamu hayaelewi matendo yako. Napopata matatizo, maswali tele moyoni, mbona yafanyike hivi, mbona yafanyike vile. Lakini Baba, ninajua kazi yako haina makosa. Wakati wewe